Eccoci qui, benvenuti, siamo con Bruno Cappagli, direttore artistico, per parlare della nuova rassegna, la nuova stagione del Teatro Testoni Ragazzi, benvenuto. Ciao a tutti. Bisogna sempre fare anche moltissima attenzione, rispettare tutti, e proprio parlando ai ragazzi e bambini dove bisogna fare particolarmente attenzione. Infatti ti volevo domandare quali sono gli appuntamenti a cui dobbiamo appunto prestare maggiore attenzione in questa rassegna. Allora, direi che il primo appuntamento, il più importante, è il tempo, ovvero prendiamoci il tempo di andare a teatro, ma anche di ascoltarci, di guardarci. Il primo appuntamento è adesso in questo weekend, dove finalmente apriremo la stagione con una performance che si chiama appunto Il Tempo, performance dove tutta la compagnia racconterà quello che succederà durante tutta questa stagione, che è ricchissima di spettacoli, come ormai siamo abituati da tanto tempo. Appunto, questo weekend faremo questo open day dove tutte le famiglie, bambini e bambine verranno, e da lì poi da ottobre iniziamo a fare gli spettacoli. Inizieremo con delle nuove produzioni come per esempio Anche tu, scene di un'amicizia, che debutterà il 24 di ottobre ed è uno spettacolo dedicato a quello che accade normalmente e anche non normalmente in una relazione di amicizia, e questo è una partenza per iniziare a lavorare sostanzialmente sull'emozione, che un po' è il nostro cuore, quello che vogliamo toccare sempre dei bambini e delle bambine, ma anche dei genitori, degli adulti, è quello di viversi le emozioni come secondo noi il teatro sa trasmettere molto spesso. Emozione tra i temi principali, quali altri sono i temi a cui abbiamo voluto prestare un occhio di riguardo, un'attenzione particolare? Allora, faccio un esempio di A Corpo Libero, che è una nostra nuova produzione per i piccolissimi, dove sostanzialmente è un lavoro dove ci invita a riconoscere le nostre parti del corpo e anche la trasformazione che il tempo produce nel nostro corpo, le cicatrici, le cosiddette cicatrici, e anche la consapevolezza che siamo sempre in continua trasformazione, e che questo è una parte fondante per il nostro crescere tranquilli e di non aver paura del nostro aspetto, di come ci sentiamo fisicamente, perché poi ci condiziona fortemente la psiche, e questa è una produzione per i piccolissimi. Un altro tema che è stato un'offerta che ci ha fatto Lega Coop Bologna in occasione del suo 80esimo anniversario è una produzione che parlerà di che cosa significa cooperare. Si chiamerà L'Indispensabile e debutterà a dicembre ed è uno spettacolo per i più grandi, naturalmente. È la storia di due personaggi che hanno due modi completamente opposti: uno vuole il successo e il denaro, l'altro invece vuole trovare i contenuti e ha una sua etica forte, devono trovare come, che di fatto racconta anche la storia della nostra cooperativa che quest'anno compie 50 anni. È un doppio festeggiamento: se ci sono gli 80 anni della Lega Coop, ci sono i 50 anni di questa cooperativa che da anni si confronta e anche si scontra, succedono tante cose dentro una cooperativa per poi trovare una strada comune, quindi raccontare ai ragazzi che le cose vanno affrontate insieme, anche se a volte ci sentiamo così diversi, ma invece è importante poi trovare, e lì forse trovi sempre la soluzione migliore quando i due si confrontano realmente. Facciamo il buon compleanno per questi grandissimi anniversari, proprio nell'ottica di scontri, di rendersi conto di essere diversi, anche un po' i tempi che cambiano. Era un po' una domanda mia: in che modo è cambiata anche la scrittura degli spettacoli per interfacciarsi con il nuovo modo di essere bambini, anche dovuto alla digitalizzazione e al nuovo diverso modo di vivere che si sta avendo in questi ultimi anni? È una bellissima domanda che noi ci poniamo continuamente ed è forse la domanda chiave del nostro fare. Ti ringrazio della domanda. È veramente difficile, nel senso che noi la baracca, ma questo posso parlare anche un po' a nome del teatro ragazzi italiano, c'è una convinzione che il linguaggio teatrale è un linguaggio molto diretto, che sicuramente sta cambiando in base a quello che sta succedendo e anche ai nuovi autori, ai nuovi registi, ai nuovi performer, e c'è una continua evoluzione, ma il linguaggio rimane quello della forma teatrale, che sostanzialmente ha una caratteristica che va un po' contro quello che sta accadendo adesso, che è proprio quello che dicevamo all'inizio, che è il tempo. È un tempo di ascolto diverso, a volte può essere anche ostico. In realtà noi lo vediamo, i bambini e le bambine ci stanno, ti ascoltano, chiaramente poi il linguaggio sta a te, nella tua capacità anche artistica di trovare le parole giuste e i contenuti anche giusti, ma è una trasformazione che quasi non ci si rende conto, è in atto. Io sono 40 anni che lavoro con la baracca, se penso ai primi spettacoli che abbiamo fatto, adesso sono tutta un'altra cosa, ma è un'evoluzione che quasi non ti accorgi. Diciamo che è frutto di una continua ricerca e di confronto con l'infanzia. Costante muoversi senza avere dei veri e propri gradini, ma un cambiare con il carpe diem, no? Un tutto esatto. Scorre. Diciamo che noi, per esempio, abbiamo una scelta molto consapevole, registica, di messa in scena, che è quella del non uso degli apparecchiature elettroniche, dove l'uso del video, se c'è, è perché c'è un motivo e deve essere molto giustificato. Tendiamo a tenere la scena vuota addirittura, proprio forse per questa densità di immagini, questo schippare da un pensiero all'altro in maniera vorticosa. Noi pensiamo che invece il teatro è un luogo di ascolto e anche di attesa. Ricominciare a dare il giusto apprezzamento al tempo, anche quando magari si vorrebbe accelerare, perché già stiamo sempre correndo. Esatto. Proprio per chi corre sempre, corre il rischio di perdersi questi spettacoli, come e quando partecipare, venire a vederli dal vivo? Per le scuole va bene, lo sappiamo, tutte le mattine le scuole ci frequentano, vengono a vedere i nostri spettacoli. Gli spettacoli in generale noi li facciamo sempre nel weekend, il sabato e la domenica. Il sabato soprattutto c'è spettacolo sia la mattina che al pomeriggio, la domenica c'è il pomeridiano classico. Diciamo che il sabato forse è quello più dedicato alla primissima infanzia, mentre la domenica sono spettacoli che toccano i bambini e le bambine già dai 4 ai 5 anni in su. Però diciamo che tutti i santi weekend Teatro Testoni, insieme a tantissime compagnie, questo ci tengo molto a precisare, la nostra rassegna è piena di compagnie che vengono anche da tutto il mondo. L'offerta è molto ampia e varia, c'è la danza, c'è la musica, c'è l'arte plastica e chiaramente anche la narrazione, a cui noi poi siamo molto legati. Mi raccomando, ricordiamo di venire qua. Io ti ringrazio tantissimo, Bruno, per questa disponibilità. Vi ringrazio a voi di cuore.